allucinante, a volte, Guardi, come dico, cercate una bella mantova, la trovi, che sia in buone condizioni, che qualcuno te la venda, togli quella che c'hai e ci metti una mantova, te lo sto dicendo io. E c'è un sacco di gente che c'è la mantova a casa che non si è fatto più niente, hai capito? No, non la voglio mettere mantova, voglio mettere mantova così, che mi dà molte prestazioni, che sia molto ben costruita. Io cosa ti ho detto quella volta lì, cazzo? Fate molto quello, se vai direttamente sotto, vai sotto al tetto, cazzo. Vai insieme ai quelli del comune, legaci il capo, te lo scendi giù a casa di tuo padre e tu c'è la mantova già piazzata. Si è fatto pure tutto. Lascia parte il discorso è quello. Solo che a quest'ora non ti avevo proprio niente, hai capito? Il discorso è quello. Perché la mantova se l'avevo nuova. Quindi vabbè, c'era la parabola, la parabola avete fatta cadere in due. Quella te, tanto quello era morto, chi se ne frega a un certo punto. Purtroppo è così. Purtroppo tu non abitavi di lì, questo è quello, non ho saputo quello l'occasione, non è morto quello là, a un certo punto. Se la volta la prendono la mantova. Appunto per questo sto dicendo, se avessi stata lì, bella tranquilla la mantova, avresti fatto altro che aggrappato il cavo sotto, tac, e proprio per casa tua, il discorso è quello. Alla faccia di quello lì è morto. Appunto per capitato così e non veniva. Tanto ne abbassa un pochino. Sono fatto, eh? Aspetta. Guarda, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se va meglio adesso. Ok, vabbè. Stavo dicendo che quella lì però bisogna vedere molti anni era sul tetto, bisogna vedere che cavolo gli è preso, oppure magari abbiamo avuto ese problema d'olio. Sì, ma quello lascia perdere, quello mi andava tranquillo. Se secondo me se ci avrebbe fatto salire su e agganciare il capo funzionava. A un certo punto funzionava, a un certo punto, se lo avrebbe buttato giù funzionava bene, sì, a voglia, ma è morto lui, immediatamente tu gli dici, guardi, è morto quel signore e mi serve di salire sopra, tanto per dire, mi può far salire su, aggancio il cavo, eccetera, eccetera, mi aggancio in casa mia per i fatti miei, anzi, vabbè, c'era tuo padre quel giorno. Mi serve per mio padre, serve anche l'altro accesso, capito? Non per la parabola dice, ascolti, la parabola tagliate tutto, chi se ne frega la parabola? A me interessa solamente l'antenna, basta. Quella era 27. No, adesso io ce l'ho sul tetto, ce l'ho. Vabbè, ho capito, ma quel periodo lì già lo sai com'era, cazzo. Beh, certo, c'era fatto in questo periodo, mi era rifatto scendere, aveva fatto una pulita, controllata e tutto, me l'avrei messa io, me l'avrei messa la mantova, turbo. Però è stato tutta un'epoca dove papà non voleva e cosa, ne hai parati dell'aria, ne ha buttata giù. Vabbè, ma tutto per gli spazi si fanno, già lo sai anche tu. Se no mi hai lasciato a sombra ancora, l'avrei fatta controllare quella, perché me l'avrebbe data, cosa, ma avrei detto pigliatira, cosa che me l'ha detto pure, se è lasciata ancora a sombra te l'avresti presa. Il problema è salire sopra, già lo sai anche tu, io a salire sopra, lo sai come venivamo in male, neanche un'idea ne hai a un certo punto. Noi allora mettiamo la scala lunga, giusta, non male, ma così è facile da te, o via. Capo, sono montata su, vuol dire che è facile. Sì, ma tu hai montato una moto, ma hai montato, cazzo, un'antenna che è totalmente diversa, più leggera. Il discorso è diverso. Non mi fai le paragoni, già lo sai, Anzo. Se avessi montato una moto, ma sarebbe stato cioè, totalmente una cosa diversa. Ma antenne così pesanti, se ce l'ha fatta già su, o che antenne così pesanti io non ne metto. E invece l'ho messa, il discorso è quello. Antenne così pesanti, pesa 3 kg più il palo, figurati tu, cazzo. Mica sono salito io me in quella palazzina, e so cosa vuol dire, cazzo. Lo so, Antonio. No, conviene antenne leggere lì. Non metti tiranti, non metti niente, funziona bene lo stesso. Per la parabola basta mettere la TV un bel palo in quella strada della parabola, cazzo. Avessi messo, non ti posso dire, 3-4 metri di palo, avessi messo una moto, ma sarebbe stato tranquillo, non ci sarebbe neanche coricata, il discorso è quello. Il problema, cazzo, che lui, che c'era prima, ha fatto un sacco di casino, quindi hai capito cos'è il discorso? In quella palazzina lì, ce l'hanno con l'hotel del baracchino. Adesso se più là riesco a metterci, metto quella creazione senza radiale e va più che bene, va a bella bozzola, a truncarmi un fondo, no, qua rende benissimo, visto che non ho problemi, se mi sento va per tutto, così che cosa mi può capire un amato qua, oh, lascia perdere. Sono entrato, buonasera, ciao Antonello, ma oggi Antonio. Antonello, sono entrato, avanti. Ciao, saluto di bene, zitto. Vabbè, la canzone oramai è quella che c'è, già lo sai anche tu, la moto va, non esiste più, a un certo punto, chi ce l'ha, se la tiene e se la vende 200 euro, il discorso è quello, hai capito? A un certo punto. Il cerè si azione 200 euro, che poco va sicuro. Io avrei pesanti non ne metterò mai. È molto leggera ed è 5 ottavi. E da voi rivedi i mattracchi. Perché la mia ci va bene, se tu la fai bene e non ti entra acqua, quell'antenna è spettacolare, ce l'ha Marco Condor, come quella di Marco Condor. Quella ce l'ho io a Parigi, lo sai. Sì, e dici Bocchi, Antonio D'Anchivi. Lui ha messo quella lì. A me non mi piace bar niente di Sant'Enna che ha quest'antonio. A chi è un bel di Fittusa, ogni andato di barra. No, quella già va bene, quel modello vecchio è quello. Ma io ne ho visto una e non era Cristo, Era un'antenna del cavolo proprio. Invece la BA27L è 5 ottavi ed è leggera, forse più leggera di quella. Comunque c'è quella, già lo sai, Natalino. Adesso ho appena tolgo quella, ci metto uno a 5 ottavi, li cambio il gavetto che parte dalla PL che fa la bobina. Basta, io ho finito. E anche la trova come nuova, perché è nuova, sempre nuova, non c'ha un punto di ossido, quindi fa un sacco di soldi la mia moto va turbo, grazie a Dio. Meno male, sono stato fortunato. Tu, a me 3 volte me l'ho dovuta scendere la moto va turbo, perché mi si ossidava di brutto, sempre, forse era l'aria che arrivava lì dal mare, non ne so. Però a me, sia la BA27L, chi se me ne farà drugare in terra, chi mi si è fossi dato il bocchettone dell'antenna e mi avessi messo il 213 in terra da solo, senza toccarlo né niente. Figurati, la mantovano turbo tre volte, l'ho messo a mano, alla fine ce l'ho buttata e mi ho messo la mantova 5. Adesso c'è sempre quella mantova 5 che se ne sta ridendo. 2 mesi di vita ci aveva quella mantova 5 quando me ne sono andato da dovere. A chi non me la fare? A chi non me la frutti nulla, l'antenna ce l'ho qua, basta. Poi no, è troppo pesante la mantova 5 a metterla qua, devi entrare da una botola, un macello, qua. Meno male che sono riuscito a piazzarla sul tetto, se no era un problema qua, guarda. Infatti mi è piazzato solo l'antenna del baracchino e quella della TV, tutto su un palo da 4 metri, di quelli d'acqua però, non di quelli grossi. Ed è una roba. Io ce l'ho a 4 metri lo stesso. Sì, il mio lo stesso, da un pollice zingato, e in modo che sia tranquillo. Ed è tranquilla l'antenna, non c'è né tiranti né nulla. Se, un attimo li prendo io che entro sopra e salutare che c'è una bassa. Ciao Antonello, ciao Natalino, ciao Antonio, saluto un ascoltone per me QRT, Antonio riprendi. Capa Marina, potevi intervenire. Come tu? Potevi dire anche tu la tua. C'avevo una bassa e mi sono sostato, dai. Già sentiamo domani, ciao ciao. Ciao ciao. Ce la risentiamo Marino. Ciao Marino. Vabbè, anch'io me ne faccio in QRT. Devo coricarmi, che non ve la voglio subito, mi sa comunque. Ci sentiamo alle prossime, da, ciao a tutti. Ero in ascolto e stavo facendo roba al computer. Quello ti per me, dai, ci sentiamo alle prossime. Ciao, ci sentiamo, ciao Maria, alle prossime, ci sentiamo. Ciao Natali, a domani, no? Ciao Natali, ci sentiamo domani, adesso pure io me ne entro a nanna. Ok. Ok, a domani se coincide, ciao a tutti. Ciao ciao, sempre bene, ti arrivo a casa. Cazzo che cazzo. La realtà fanno per 25 anni da quelle parti. Ti ha sparito? È vero. Care. Vero, vero. Ciao Antonio, buonasera. Buonasera anche a te. Allora, che si dice? Ma c'era Natalino? Sì, Natalino c'era. Natalino c'era, io troppo me ne trovo a letto che... Sono un po' qui stracco, un gioco, si sta andando in radio, cioè si sta contando la sera. Sì, ci ha pagato. E quindi... Andare. Riprendi Antonio. No, nemmeno più che altro. Non c'è nessuno, quindi a un certo punto. Cosa devo fare? Però lavorare un apparato da casa mia aveva l'alghero, hai capito? Da qua a Sentino, da qua a Tempio, arriva tranquillo. Invece ho già fatto la prova, quindi a un certo punto adesso vediamo Alghero, vediamo un pochettino se funziona la cosa. Oh, ma non aggiungo questo una cosa, perché questo 3009 mio, nuovo, quello con la mascherina grigia dentro una pompetta, ma cosa si fa? Aspetta, non ho capito niente, cosa mi hai? Ho detto che il 3009 mio, quello con la mascherina grigia argentata, c'è una pompetta dentro, ma cosa serve? Una pompetta dentro? Ma tu scherzato? Ma... io non ho mai visto una pompetta dentro, cazzo. Ma non è che sia un conduttore invece? No. A un certo punto. Qua c'è scritto raffreddamenti liquidi. E come c'è lo scippatore dietro? ma veramente con la ventola. Che cazzo, adesso stavo facendo così, stavo facendo. Sì, certo, io non l'ho mai visto la ventola. Una cosa che cioè, non mi è mai capitato la verità. C'è scritto raffreddamento liquid, non era la ventola, c'è liquid. Adesso un attimino. Ho capito. Sono quello che c'hanno la flebbe. Gloria, e ci andiamo a cucarmi. Buonanotte a tutti. Ciao a te, buonanotte, lascia in casa. Ciao. Chi c'è? Quello è il troioso di Luca, il canaro. E allora, adesso la tua motorella gli ha detto che c'erano, che c'è a Parigi con la flebbe. Ma così è. E allora? Io non ho mai visto, cioè, un apparato con un cazzo per poter raffreddare il cazzo il coso, l'apparecchio, la verità, cioè i finali, quello che è, mai l'ho visto in vita mia. Secondo me è stato una cosa strana, ma tu l'hai mai visto la parina, una cosa del genere, cazzo? Si tu subito la ventola, quello che è. Ma cazzo, cazzo, una pompa per fare un tipo pompino, cazzo devo dire, secondo te, cazzo, per affidare cazzo i finali, ma no, non esiste, cazzo, la cosa del genere, boh. Luca c'ha l'apparecchio che fa i pompini, cosa ne so io? Cazzo, senza presa Luca, la verità, ti giuro, senza presa Luca, io non ho mai sentito una cosa del genere in vita mia, ma la verità adesso, la verità, io non ci credo, cazzo, che ci voglia, cazzo, una cosa del genere, cioè, vabbè, a un certo punto, cazzo, le salette sono salette, ma fino a un certo punto, scusa, Ma se c'è la pompetta, c'ha... Vero Luca, puttanaro, rispondi. Ma dimmi tu, tutto ma ti sembra normale, cazzo, a te, scusa. Come mi sembra innormale? Cazzo, a me mi sono i binocoli per il culo, cazzo, per altre cose, ma cazzo, ma che mi faccio, cazzo, che mi ci sia una pompetta, cazzo, per fare, cazzo, la tardare, cazzo, con l'aria al limite, cazzo, magari qualche tipo di assiste in un discorso diverso, ma che devo fare, cazzo, un coso, un'altra cosa, la verità. A me mi si è bruciato perché non c'era la pompetta, deve essere quello lì. Già c'era l'attacco, ma la pompetta non c'era. Ma per carità. Ma che cazzo di apparecchi state comprando? Ma lo spieghi, cazzo, tu? A un certo punto, cazzo. Il 2009, cazzo. Di subito, cazzo, sono ormai. Non è che ti cazzo puoi comprare una pompetta, cazzo, per affreddare, cazzo, e come si chiama? Sta scherzando, cazzo, a un certo punto. Boh, io non ci credo. Non ci credo la verità, cazzo. È come mettere il gel. Ci manca solo, cazzo, che ti dicano, cazzo, di metterci il gel. Cazzo, refrigerante, cazzo, a un certo punto, cazzo, per poter affreddare, cazzo, il tassista, cazzo, ma sta scherzando. Da me ci sono di piacere, è come quello di Luca, solo che da me non c'era la pompetta, non me l'hanno messa la pompetta nel mio, e mi si è bruciato per quello, perché non stava funzionando il circuito di raffreddamento, deve essere, vero e fra? La pompetta infatti manca, sì, quella che raffredda tutto il circuito, è un casino. Cazzo, belli apparecchi state comprando, cazzo. Ma è carità, guarda. Io ci avevo buttato la li avevo eliminati proprio da cosa, perché non è possibile, cazzo. Poi, cazzo, la saltare degli apparecchi con la pompetta, cazzo. con gel cat ghiacciato a un certo punto. Sì, mi sa che c'è l'azoto, no? Sì, già c'era l'attacco, ma io non ci ho fatto caso che bisognava mettere una pompetta lì. Deve essere che a me me l'hanno dato senza la pompetta ed è per quello che ha fatto quella fine. Allora, in pratica il gel congelato, stato 30 vento e poi esce il nuovo fuori, io so cosa pensare la verità. Il mio Lazzarino, sto raffreddando con la fleb e il vino. Ogni tanto accendo un goccio di vino e lo raffredda tutto il cervello di trasmissione, capito? Ah, così è. Allora, così si raffredda meglio, esce meglio. Guarda, mi sembra di essere, cazzo, a un certo punto, cazzo, cosa posso dire? Non lo so, entrare dentro un frigorifero, in macelleria, tanto per dire, cazzo, entro dentro, mi raffreddo i filari, esco fuori, dopodiché entro di nuovo a usare il baracchino, che cosa è questo? Sì, cosa ne so? Vabbè, dai, io me ne torno alla curicamera, stavo facendo già QRT, solo che ho sentito a Franco quando stavo spegnendo. Ciao fra, ci sentiamo al limite, ci aggiorniamo alle prossime. Ciao a chi c'è in frequenza, anche gli ascoltoni, quel puttanaro di Luca non è entrato. Vabbè, là. Ciao a tutti, QRT per me. La verità, boh. Sì, creato un casino solo questa radio. Io non spendo più niente in queste cose, capito? Vale la candela. Guarda, sapendomi, cazzo, la panica nuovo, cazzo, essere in queste condizioni, la fresco a buttaccio nella mordezza, eccetera, eccetera, se la biglia in curva. Cazzo, la fresco a bere, cazzo, un termine nuovo, il modello vecchio, pagarlo, cazzo, il doppio, anche pagarlo, cioè, il doppio, o il quadruplo, quello che, ma a me sono tranquillo. Cazzo, ma che ti che una persona si presenta, cazzo, con una cosa del genere, cazzo, non esiste, no? Io non ho mai visto una cosa del genere in vita mia, mai l'ho vista, mai. Vabbè, ora te ricordo, mi soffendi. Ti giuro, guarda, che io non ho mai visto una cosa del genere, in vita mia, mai visto una cosa del genere, ti giuro, guarda. Boh, cosa vuoi tu di canto a me? Non so cosa dirti io. E quindi l'antenna l'hai cambiata? Sì, l'antenna momentaneamente l'ho cambiata. Quindi mi assistiamo di nuovo la mia vecchia e quindi, vabbè. A un certo punto tornava come prima, anzi meglio di prima, solo l'altro, perché posso pompare 1500 watt, che sarà l'unica, hai capito? A un certo punto cambia il PL, alla bobina, quando metti il cavo da due, secondo te, alle poche di roba. E beh, un cavo da due è tutta un'altra cosa. Perché il cavo c'era sotto in bobina? Il cavo da uno c'era neanche. Uno fila c'era, hai capito? Cavetto da uno. Ma quello non serve a niente il capo. Quello si brucia subito. Fanno le antenne buone e fanno le cariche e fanno schifo. Si è sciolto il cavo proprio, hai capito tu? Mi manca a me in mano la carica, cioè il piede, completo del coso, non c'era più neanche la plastica, non sono andato, quindi figurati tu, è incollato lì. Quindi gli hai fatto la carica tutta nuova, la due, da sopra fino al PL, giusto, fino alla femmina. No, devo aprirlo, più che altro, perché io ce l'ho amato, ma non è quello che diverso, con la antenna, hai capito? Quindi ho certo punto devo fare una modifica e totalmente diversa. Quest'anno non posso comprare i 2 kW, solo che... Sì, ho capito, cioè la matova 5, capivi tu, o la turbo. La turbo, cioè, la 5 è più facile da fare, già lo sai, ma la turbo è totalmente diversa. Ho capito, vabbè. Devi aprirla per fargli la carica. Invece la matova 5 è diversa, perché ne sfidi il centrale e ci trovi la carica subito, capito? Che poi passa all'interno dove va a fissare il coso, la femmina dove attacchi il PL della discesa, dai. Appunto per quello, qui piace. Hai capito cosa sto dicendo io? Aspetta un minuto che sto arrivando subito. Ehi, io chiudo adesso fra un po'. Vabbè, stai chiudendo, è un conto, no? Al limite ci stiamo domani, ma comunque sia, domani faccio la modifica, per poter portare, poter utilizzare 2,5 kW nella mantova. Quindi, sono unico a fare una cosa del genere. La mantova a casa non c'è ossido né niente, quindi per lo stilo sono a posto, la posso prendere anche per 100 euro 3 kW, hai capito? Quindi a un certo punto che lavoro è così, 300 euro non me la frega niente a me, è nuova. Ma è nuova o nuova non ce l'ho fatta? No, nuova fatto da me, il discorso è diverso, 3 kW in confronto ci sono forti. Ho fatto l'apporto alzato, quindi a un certo punto, se che lavoro, poi c'entro io la mantova turbo, faccio tutto, il sistema è tutto contrapposto, la base di sotto, dei radiali, eccetera, eccetera, se hanno qualche cosa, sotto, quello che è, la mantova, la voglio 300 euro, di bella non la do. Il discorso è quello, se qualcuno ha soldi mi dà un apparato HF e siamo a posto. Sì, Antone, dai. Va bene, dai, io sto chiudendo, Antone. Ci sentiamo alle prossime, sono in casa anche la parte mia. Passo in QRT che devo fare alcune cosette al computer. E saluto tutti, eventuali essere più quelli che sono ascolto, per me QRT, dai. D'accordo, sì, ci stiamo alle prossime. Ciao. Ciao Antone, ciao.